Cialtroni nello spazio. Bentornati al momento di informazione tecnologico, informatico, culturale di Radio Onda d'Urto. Ecco, a proposito di informazione tecnologica, ti voglio far notare che prima hai alzato il volume delle mie cuffie, non delle tue, che quindi mi stai un po' assordando. E ora gira quella manopola leggermente, per favore, Marco, grazie, Ale, che hai provveduto in qualche modo. Adesso non sento più niente, però non importa. Cialtroni nello spazio, come ogni mercoledì alle 12.40 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e poi in replica per chi lo vuole sul sito radio.circolab.net. Ciao, esatto. Alessandro, ciao Marco. Se non fossimo in diretta potremmo ripartire con la trasmissione, direi. Sì, potremmo anche farlo, ma non lo faremo perché per principio Perfetto. Noi non lo rifacciamo mai. Benissimo, allora passiamo subito al riassunto di quanto parlare di quello che analizzeremo oggi giorno, Alessandro. Temevo che tu volessi fare il riassunto della puntata scorsa, non so perché. Va bene. La puntata precedente, Cialtroni nello spazio ha parlato di Italia.it, e anche in questa puntata avremo un fantastico aggiornamento. Vi avevamo promesso che la saga sarebbe proseguita. La saga continua, ne parleremo tra un attimo, dopo che abbiamo la posizione della... Un altro aggiornamento, la via Viacom, avevano detto che aveva denunciato YouTube. E YouTube ha denunciato la Viacom. No, in realtà no, però quasi, potrebbe farlo. Insomma, poi parliamo di sempre sul diritto d'autore. Rutelli che dice: è giusto il penale per quelli che scaricano la musica da internet. Tutti e in abbiamo carcere. Anche la saga dei pentiti, invece, di coloro che avevano votato la legge Urbani e che adesso, pentiti, continuano a scaricare musica illegalmente. Abbiamo un qualcosa relativo al punto di vista di alcuni discografici relativi al problema della condivisione su internet del peer-to-peer. Parliamo un attimino di Microsoft e della sua abuso di posizione di monopolio, come visto dalla comunità europea. Oddio, sembra una puntata ricchissima, non pensavo, francamente. Fino a 5 minuti fa mi sembrava che non avessimo niente da dire oggi. Avevamo anche una storiella carina, ma non l'abbiamo tirata giù. Magari adesso la andiamo a pescare negli archivi della lista di coordinamento della trasmissione. Intanto, come sempre, ci sarà anche un po' di musica dal sito yamendo.com, rilasciata sotto licenze Creative Commons, che diventano ancora un po' più grandi di quello che erano, perché stavano uscendo le... la versione 3.0. Da Bene. Dove iniziamo? Non ho la più pallida idea. Potremmo... Allora inizio io, visto che Marco lo vedo impreparato. Iniziamo da Italia.it, il portalone. Ne avevamo parlato spesso. Problemi non solo di natura informatica, ma anche problemi di contenuti con diversi errori che erano stati segnalati. E il portale turistico Italia.it mi sembra che sia un cadavere che forse sarà difficile da rianimare. Queste sono le parole dell'assessore al turismo dell'Emilia Romagna, Guido Pasi, che ha parlato con i giornalisti a Rimini, che insomma col turismo qualcosa a che fare in Italia ce l'ha sicuramente. Le cose che sono state rilevate per questo sito internet turistico nazionale, ha detto Pasi nelle sue dichiarazioni all'ANSA, le regioni le stanno evidenziando come minimo da un anno. Gli errori che oggi compaiono sono stati segnalati dall'Emilia Romagna molti mesi fa, e avevamo ripetutamente sconsigliato al ministero di mettere in funzione quello che era, in modo assolutamente conclamato, un cadavere. Noi non c'entriamo nulla con tutto questo e le nostre responsabilità sono zero. Quindi dopo il Veneto anche l'Emilia Romagna e forse qualche regione che ci è sfuggita nel frattempo dal lancio di questo portalone ha preso posizione contro. Il problema sono le soluzioni che questo assessore questo è tipico approccio italiano. Arrivano gli americani e una fantastica tutti. Chicca, l'assessore ha detto che ci sarà un tentativo di rianimare questo cadavere. L'affidamento verrà fatto a Enit. Chi è il presidente di Enit? Paolucci, il vicepresidente di Microsoft. Confido molto nel presidente di Enit che possa in qualche modo intendersene. Pasi poi ha annunciato varie cose, faranno un contro Italia.it da un certo punto di vista con siti e-commerce e cose del genere, ma la cosa veramente divertente è il fatto che loro dicono che c'è stato un eccessivo investimento in Enit, e qui salta anche fuori chi in qualche modo ha fatto Italia.it, 15 milioni di euro rispetto ai 50 milioni che ha in dotazione per la partecipazione alle fiere turistiche, che come dimostra l'esperienza degli ultimi anni servono sempre meno a livello commerciale. E qua un'altra stoccata, mi verrebbe da dire con una battuta che sarebbe meglio investire questi 15 milioni in gettoni telefonici, farebbero più contatti. Questa insomma è una cosa divertente ancora su italia.it. E sempre su italia.it, ne aveva citato la settimana scorsa il sito Scandalo Italiano, che appunto analizzava un po' e faceva, traeva un po' il riassunto di tutte le magagne di questo tremendo portalone. Bene, Scandalo Italiano ha deciso di raccogliere delle firme appunto per chiedere al signor Romano Prodi dei chiarimenti e in particolare l'accesso alla documentazione ufficiale di gare di progetto del portale www.italia.it, e quindi chiedendo appunto il diritto a ottenere informazioni con trasparenza relativamente appunto agli atti della pubblica amministrazione che si sono tenuti per appunto per lanciare questo portalone italiano. La petizione comincia con: signor Presidente del Consiglio Romano Prodi, signori ministri Francesco Rutelli e Luigi Nicolais, a noi l'Italia piace, il portale italia.it, da poco rilasciato online, decisamente meno. Bene, cambiamo argomento e restiamo però sempre con Rutelli. È Rutelli che, penso, da dopo quello che ha dichiarato, io non posso fare a meno di definire un pirla, perché l'associazione Altro Consumo, l'associazione dei consumatori Altro Consumo, gli aveva chiesto un parere a proposito della legge Urbani, appunto dei, soprattutto relativamente alle sanzioni penali che verrebbero appunto posto in essere nel caso di qualcuno che venisse appunto giudicato secondo la normativa vigente, cosa che spero non sia ancora successa, però. Quindi la normativa che insomma in qualche modo vieta, per dirlo in parole semplici, la condivisione in internet, esatto, di filmati. Vieta la condivisione, ma ci aggiunge musica. Appunto il penale, quindi la possibilità di finire anche in carcere. Anche senza scopo di lucro. E incredibilmente il ministro dice che i diritti dei consumatori certo vanno tutelati, ma sono da tutelare anche gli interessi di autori e editori, per i quali il diritto d'autore riconosce la giusta remunerazione del proprio lavoro, l'opera d'ingegno, e quindi bisogna sbattere in carcere quelli che utilizzano il peer-to-peer per scaricare della musica illegalmente. Siamo d'accordo, però una cosa decisamente fuori dalla, che, cioè, conviene rubare un CD in un negozio piuttosto che andare a rubare a scaricare un CD da internet. Ma questa era anche la posizione di uno dei musicisti dei Metallica, che diceva: il vero metallaro ruba i CD, non li scarica da internet. I Metallica sono stati i primi a lanciarsi contro il peer-to-peer, sono dei dementi anche quelli. No, vabbè. Infatti era una cosa carina. Comunque diciamo che non tutti i politici la pensano così, c'è da dire che soprattutto nel centrodestra si allunga la schiera dei pentiti della legge Urbani. Vincenzo La Russa, esponente di prima grandezza del partito di Fini, ha invitato gli studenti a non provare sensi di colpa quando scaricano musica da internet senza acquistarla, e ovviamente ha suscitato le ire dei responsabili delle associazioni di discografici, e a questo punto penso anche di qualcuno del suo partito, tanto fautore della legalità. Prima c'era stata comunque una altra di AN, Giorgia Meloni, capo dell'organizzazione dei giovani, che aveva modificato il parere che aveva espresso in precedenza quando era al governo. Infatti oggi è diventata vicepresidente della Camera dei Deputati e ha affermato che non c'è niente di male nel download dei privati. Il primo outing, ricordiamolo, tra i politici del centrodestra era stato Bobo Maroni, che intervista aveva dichiarato tranquillamente di scaricare musica da internet, dimenticandosi che era un ministro e collega di Urbani quando c'era il governo Berlusconi, che rendeva tutto ciò illegale. Il proverbio dice: solo gli imbecilli non cambiano mai idea, ma sarebbe meglio che questi pentiti traducessero le loro idee ed esperienze in una revisione della legge Urbani. Così termina l'articolo di Zeus News che ne dà notizia. Però diciamo che probabilmente è molto facile per i politici italiani, quando non sono al governo, riuscire a ignorare i messaggi che arrivano da SIAE e dalle altre lobby della tecnologia, e mentre invece probabilmente una volta che sono arrivati al governo essere sensibili a queste logiche di potere, di denaro e di finanziamenti, probabilmente anche verso i partiti, insomma la SIAE fa molto comodo a quel punto. Anche nella sinistra però c'è una voce che si leva dal coro e dice di essere per la depenalizzazione della condivisione dei contenuti. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, era appunto Pietro Folena, presidente della Commissione Cultura della Camera, che fa parte anche dello stesso governo appunto di Rutelli, e quindi speriamo che riesca a fare. Cosa ha detto Pietro Folena? No, era per la depenalizzazione dei contenuti, non ho l'articolo qua di preciso, però. Ah, va bene, comunque. Continuiamo a parlare di diritto d'autore, e vi ricordate la settimana scorsa avevamo detto che Viacom aveva denunciato YouTube per il fatto che c'erano delle violazioni nel copyright dei filmati che chiunque può pubblicare su YouTube. Effettivamente ci sono su YouTube un po' di video che spesso sono fatti anche con sketch o brevi video tratti direttamente dalla televisione, quando non scaricati da internet in maniera di condivisione, quindi con software peer-to-peer o cose del genere. La cosa divertente è che adesso salta fuori che anche un sito di Viacom, iFilm, che era stato acquistato da Viacom nel 2005, viene pubblicato lì del contenuto che non è protetto, di cui Viacom non detiene il copyright. Si calcola che siano circa 150.000 i clip di Viacom che sono stati identificati senza che siano appunto senza detenerne il diritto. Sto leggendo da un sito in inglese, e quindi è per questo che ho qualche difficoltà. E quello che dice Viacom è che i contributi ai film sono tutti controllati dagli impiegati di i film prima del postaggio, per assicurare che sia del materiale che non è copyrightato, pornografico o anche con altri tipi di contenuti ristretti, non sia postato sul sito, mentre invece per esempio una ricerca di NBA Brawl riporta un numero di immagini di eventi sportivi dell'NBA e di di incontri di football che non è chiaro che Viacom possiede il copyright su questi clips, e quindi insomma è più o meno la stessa cosa che potresti trovare anche su YouTube. Da Punto Informatico invece prendiamo spunto da una intervista a Claudio Ferrante, che è un nome celebre della discografia italiana, che è il direttore generale della Carosello Records, una casa. Lui si dichiara indipendente, però diciamo, non lo so, ha catalogo i dischi di Vasco Rossi, di Mina, di Gaber, di Modugno, di Morricone e di altra gente, per cui probabilmente tanto piccolo non è. E lui si lamenta della situazione in cui si è appunto si trova adesso la questione del diritto d'autore, lui dice fondamentalmente il problema grosso sono gli ingressi delle multinazionali nel mondo della musica, che queste multinazionali ovviamente hanno a che fare con sono formati da cordate di banche e di investitori internazionali, e quindi il ritorno che devono avere dagli investimenti musicali deve essere chiaro e ben definito, e appunto siano loro a spingere per l'inasprimento delle sanzioni per lo scaricamento su internet, per la condivisione di file da internet. E lui dice quindi noi indipendenti ci troviamo in mezzo a questa situazione, perché poi di conseguenza gli utenti cercano di vendicarsi utilizzando il peer-to-peer e scaricando quindi le cose da internet, però alla fine non dà grosse soluzioni alla questione, e dichiara loro stanno provando a fare un sistema di vendita online, penso anche questo, per cui vabbè, niente di... No, beh, per quanto riguarda il mondo delle piccole etichette, insomma, è abbastanza risaputo che siano pochissime, alcune le abbiamo utilizzate anche noi in trasmissione, siano pochissime quelle che sostengono la filosofia, ad esempio, del Creative Commons o comunque dei liberi contenuti, e che in teoria si occupano della gestione degli eventi più che della vendita dei diritti d'autore. La maggior parte delle etichette, anche quelle indipendenti, storce un po' il naso rispetto alle Creative Commons o ai contenuti liberi, perché comunque è ancora il canale principale da cui ricavano introiti. Anche durante il May, che è l'evento principale delle etichette indipendenti, di solito i discorsi riguardanti le licenze libere sono estremamente marginali, se non addirittura completamente ignorati, e questa è sicuramente una pecca nel mondo delle etichette indipendenti, soprattutto italiane, perché come al solito l'Italia si distingue sempre per una certa arretratezza in campo culturale, direi, perché qua non si tratta neanche di digitale o cose del genere. Speriamo che appunto tra queste etichette indipendenti, l'anno scorso avevamo utilizzato una di queste che appunto forniva brani sotto licenze libere, e che si limitava alla pubblicizzazione attraverso un sito internet degli eventi che poi questi artisti andavano a fare, quindi dei live set, che è un po', diciamo, l'approccio di chi sostiene che anche attraverso le licenze libere sia possibile ottenere introiti. Però si ottengono, diciamo, più che in studio, insomma, più che in fase di registrazione, in fase di durante i concerti, comunque dal vivo, insomma, durante eventi suonati. C'è da dire che sotto questo piano va meglio nel campo dell'editoria, dove alcune case editrici piccole che hanno deciso di pubblicare alcuni lavori anche in Creative Commons, quindi mettendo a disposizione il materiale gratuito su internet, un po' anche per il fatto che il formato del libro non porta a essere molto fruibile per chi se lo stampa a casa o se lo legge su schermo, quindi magari uno anche solo per curiosità inizia a leggere un libro, poi decide, visto che gli interessa, di comprarne la copia cartacea, quindi questo è sicuramente il mezzo tecnico di riproduzione avvantaggia l'editoria piuttosto che non il campo della musica, dove invece una volta che un brano è scaricato si può masterizzare su un CD e diventa esattamente molto simile, se non uguale, al prodotto che viene distribuito, e quindi anche sotto questo punto di vista ci potrebbero essere delle innovazioni. Infatti sono in tante le case editrici che cercano di puntare anche sul confezionamento del prodotto ultimamente. Magari su questo ci possiamo tornare anche parlando delle Creative Commons 3.0 tra pochi minuti. Segnaliamo ancora un paio di cose velocemente. Ancora parliamo di Microsoft, l'infinita querella legale tra le autorità antitrust europee e il Big di Redmond. Sono arrivate adesso le dichiarazioni di Neelie Kroes, il commissario europeo alla concorrenza, che ha detto che Microsoft continua a conquistare quote di mercato sfruttando comportamenti abusivi. Secondo le stime dell'Unione Europea, il mercato per Microsoft è passato dal 99, che aveva una quota del 35%, al 60% nel 2003, e attualmente ha un mercato di circa una quota di mercato di circa il 70%. Il problema è che secondo l'Unione Europea questo non è dovuto alla capacità dell'azienda di offrire ciò che il mercato richiede, quanto all'abilità di sfruttare la propria posizione dominante, e infatti è già finita spesso nel miro delle autorità antitrust dell'Unione, come la sentenza del 2004. Microsoft dice di collaborare in ogni modo possibile con le richieste della Commissione, ma dalla Commissione Europea continuano ad arrivare segnali di come non sia vero, non sia sufficiente quello che Microsoft fa. Il motivo, scrive Punto Informatico, è quello di sempre: le modalità di accesso dei competitor dell'azienda ai protocolli che possono consentire loro di costruire software per Windows integrati quanto quelli offerti da Microsoft, e quindi sostanzialmente un problema di codice chiuso e di non disponibilità a rilasciare i sorgenti che permetterebbero di avere dei prodotti interoperabili, insomma, formati pienamente compatibili con i prodotti di Microsoft. E tra l'altro, la cosa divertente è che i protocolli di Microsoft non sarebbero sufficientemente innovativi per consentire a Microsoft di chiedere un pagamento ai propri rivali che intendessero avvalersene. Quindi e questo, se diventasse un principio legale, sarebbe molto interessante. Siamo ben lontani. Sostanzialmente è come qualcuno che decide di brevettare 1 più 1 o un altro tipo di formula matematica. La ruota. Io volevo brevettare la ruota, ma in Australia la ridammi il volume. Ma mi hanno detto in che Australia l'ha già brevettata Bill Gates insieme al l'hanno doppio click. L'hanno brevettata in Australia un po' di anni fa. Hanno brevettato anche GH. Ma quello per impedire che ci siano delle copie. Ha buon ragione. Qual è il brano musicale che andiamo ad ascoltarci? Merde. Allora andiamo ad ascoltare Messi Kuala e Mary Angie. Naturalmente il brano è in francese. Allora, preso Kuala. Sempre dai Amendo. Sarà Kuala e Mary Angie. Mary Angie. Sentiremo tra poco. Marie-Ange, tu portes bien ton prénom. Tu échanges des sourires pour un oui, pour un non. Tu fais le bonheur des grands et des petits. Tu connais par cœur, selon chacun envie. Mais Marie-Ange, quand le rideau tombe, quand ton petit studio plonge dans la What? Salutiamo Marco GH che per bisogni impellenti ha dovuto andarsene e abbandonare la trasmissione in una maniera un po' indegna di qualcuno che sta facendo la trasmissione in radio, visto che non ha voluto nemmeno aspettare un minuto per salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Potete comunque insultarlo all'indirizzo spazio@circolab.net per mandarci delle email. Noi continuiamo intanto la trasmissione in questa versione A2, che tra l'altro sarà ripetuta la settimana prossima per mancanza, assenza mia, e quindi già un po' temo nel lasciarvi dalle mani di Alessandro e di Marco. Comunque arrivano le licenze Creative Commons 3.0, questo è il prossimo argomento. Allora, come avevamo annunciato, dopo l'uscita della versione 2.5 è uscita la versione 3, che prevede la trasformazione della licenza americana in una licenza generica e della sua traduzione linguistica in svariate lingue, tra cui anche l'italiano, e della sua traduzione completa, quindi sia legale che linguistica, in tutti i vari stati dove era previsto il trasferimento delle licenze Creative Commons. La versione 3.0 questo fa anche un po' un'integrazione per le licenze all'interno del sistema giuridico degli Stati Uniti, con tra l'altro un set di licenze specifiche che forse sono anche legate ai diverse legislazioni di diversi stati, forse. E sono legate ai trattati internazionali che regolano il diritto d'autore. Quindi invece che tenere come riferimento la legislazione americana, prendono come riferimento questi trattati. Nella prassi poi le differenze non sono tantissime, però ci sono, e per superare questo problema è stata appunto fatta questa trasformazione. Alcune novità le avevamo già segnalate, tra cui questa. C'è stata un'armonizzazione tra i diritti morali e i diritti relativi ai diritti d'autore gestiti collettivamente, questo per separare e per dare una maggiore possibilità di gestire i diritti da parte di una società, a differenza del singolo che detiene il diritto d'autore, che quindi non è cedibile. E la clausola di non approvazione è stata aggiunta, per cui chi detiene la possibilità di utilizzare l'opera, quindi a meno di vincoli particolari, chiunque, non può rivalersi in alcun modo rispetto all'autore. Questo è necessario perché in alcuni ambiti legali, questo dovuto al diritto d'autore tradizionale, la cessione all'uso poteva comportare una sorta, chiaramente dal punto di vista legale non è esattamente così, comunque una sorta di uso capione dell'opera. In questo caso si va a precisare che anche se l'uso è consentito, la detenzione del diritto d'autore è comunque dell'autore dell'opera, che è segnato a calce con la licenza Creative Commons. E per il resto gli altri due punti sono ancora un attimo in sospeso: compatibilità con altre licenze e l'interazione col progetto Debian e col MIT è ancora in fase di evoluzione, quindi resta tale anche nella licenza italiana. In conclusione segnaliamo... No, poi abbiamo anche una storiella carina. Ah già, sì, c'è anche quella. Allora, due siti. Allora, uno è piuttosto recente, si trova su Autistici ed è www.autistici.org/o.design. È un sito che si prefigge come collettore di progetti di design in senso generico, sia progetti che modelli, quindi anche metodologie di sviluppo eccetera, che si propone appunto di raccogliere questi progetti. Questi progetti sarebbero coperti da licenza Creative Commons con diverse formulazioni a seconda di cosa ne vorrà fare l'autore, e verrebbero raccolti, condivisi con la possibilità di essere rielaborati e da una serie di strumenti come i forum, la chat, la possibilità di pubblicare e di raccogliere notizie, un wiki per la scrittura comune di eventuali testi, manuali, commenti eccetera. Quindi è un buon portale con una serie di strumenti per designer probabilmente giovani, visto che è un po' più difficile emergere per chi ha meno di 30 anni, e con cui appunto poter lavorare e condividere esperienze con altri, garantendo la copertura comunque del diritto d'autore sulle proprie opere, e anche un modo per pubblicizzarsi. Da questo sito, che per il momento raccoglie principalmente news e link perché è di recente creazione, facciamo un salto, un link segnalato da questo sito che porta a ikeahacker.blogspot.com. È un sito di pazzi sostanzialmente che si divertono a fare hacking sui prodotti dell'IKEA senza voler pubblicizzare la multinazionale del mobilio a basso costo, però è interessante perché vengono pubblicati una serie di modifiche, di progetti di design o di bricolage con fotografie e eventuali disegni per la realizzazione di seggiolini, puff, vestiti, lampade, una serie di tutto quello che insomma si può trovare all'IKEA, quindi arredamento, quindi cose anche replicabili su altri oggetti di arredamento, e che sono molto interessanti, tutto coperto da licenza Creative Commons. Ad esempio, uno dei progetti che ha fatto un po' il giro dei vari siti che seguono questo genere di cose è ad esempio un cubo, un puff a forma di cubo riempito con un PC, con la scheda di un PC, con tanto di CD-ROM e di schede per l'uscita, tutto montato all'interno del puff, a cui era sufficiente attaccare l'uscita video in maniera tale che all'interno del salotto non fosse visibile alcunché di elettronico per far andare, non so, la TV, come insomma per cinema di casa, insomma. In conclusione, una storiella di cui è uscita una nuova versione, probabilmente la storia è un po' vecchia, si parla di come sarebbero le compagnie aeree se riprendessero dai sistemi operativi. Allora, se ci fosse una Unix Airways, ciascun passeggero si porterebbe con sé un pezzo dell'aereo quando arriva all'aeroporto, quindi tutti i clienti vanno fuori nella pista e mettono insieme l'aereo pezzo per pezzo, discutendo senza sosta riguardo il tipo di aereo che hanno intenzione di costruire. Se ci fosse una Air DOS, tutti i passeggeri spingerebbero l'aereo finché non inizia a librare leggermente, quindi ci saltano tutti dentro e lasciano l'aereo planare a motore spento finché non tocca terra di nuovo. A questo punto ripeterebbero l'operazione finché non raggiungono la meta. Mac Airlines, tutti gli steward, i capitani, i facchini e i bigliettai hanno lo stesso identico aspetto e si comportano allo stesso modo. Ogni volta che chiedi qualcosa sui dettagli del volo, ti viene risposto con gentilezza e decisione, allo stesso tempo che non hai né bisogno né la volontà, in fondo, di conoscere quanto chiedi, poiché tutto verrà fatto per te senza che tu debba sapere altro, quindi devi semplicemente stare zitto. Windows Air, il terminale è carino e colorato con steward amichevoli, un facile controllo dei bagagli ed imbarco. Il decollo è inoltre molto delicato, dopo 10 minuti che sei in aria l'aereo esplode senza alcun tipo di avvertimento. Windows NT Air è esattamente come la Windows Air, ma costa di più, usa aerei molto più grandi, distrugge tutti gli altri aerei nelle 40 miglia circostanti quando esplode. Poi c'è Windows XP Air, quando raggiungi l'aeroporto, che è obbligato per contratto per mettere solo aerei della XP Air, tutte le autovetture sono identiche, colorate con toni chiari e grandi, il triplo del necessario. I simboli sono smisurati, tutti indicano la stessa cosa. Qualunque cosa tu faccia, spunta qualcuno vestito con un mantello e un cappello a punta che insiste che tu lo segua. Ti vengono tolti i vestiti e i bagagli e vengono rimpiazzati con un completo e una valigia della XP Air, del tutto identici a quelli delle altre persone che ti circondano. E tutto questo è incluso nell'esorbitante prezzo del biglietto. L'aereo non partirà finché tu non avrai firmato un contratto. Si scopre poi che lo spettacolo di intrattenimento durante il volo è il solito cartone di Topolino, ripetuto ad oltranza ad ogni volo. Devi telefonare alla tua agenzia di viaggio prima di mangiare o bere e vieni richiamato diverse volte durante il volo. Se vai al bagno due o più volte devi comprare un nuovo biglietto. Non importa quale destinazione tu abbia scelto, il tuo viaggio terminerà sempre con un atterraggio di emergenza a Whistler in Canada. E Whistler, ricordiamo, è il nome in codice di Windows XP. Infine c'è la Linux Air. Gli impiegati, scontenti di tutte le altre compagnie, decidono di iniziare a costruire la loro compagnia. Questi costruiscono gli aerei, i contabiglietti e bitumano le piste da soli. Fanno pagare un piccolo contributo per coprire il costo della stampa dei biglietti, ma te li puoi anche scaricare e stampare da solo, senza spendere niente. Quando poi sei a bordo dell'aereo, ti vengono dati un sedile, 4 bulloni, una chiave inglese e un copia della guida al sedile.html. Una volta che sei seduto, la postazione è totalmente personalizzabile, è molto confortevole, l'aereo parte ed arriva in orario senza alcun problema, il cibo durante il volo è fantastico. Provi a raccontare ai clienti delle altre compagnie la tua spettacolare esperienza di volo, ma l'unica cosa che ti sanno rispondere è: cos'è che hai dovuto fare con il sedile? Più che una storiella, una lezione di vita. Comunque con questo siamo giunti alla conclusione della trasmissione Cialtroni nello spazio, che tornerà come sempre mercoledì prossimo alle 12.40, o almeno questo è quello che io spero, visto che non ci sarò, e siete nelle mani di Alessandro e Marco. Ricordiamo il Circolab, sono aperte ancora le iscrizioni per i corsi che stanno sì, iniziando fino a partenza, partiranno mercoledì 4. E il programma è tutto, l'abbiamo segnalato, la mail l'abbiamo data a radio@circolab.net. Sai che abbiamo dato spazio, che forse non è quella è giusta. uguale oppure radio.circolab.net per vedere le vecchie puntate, gli argomenti che abbiamo trattato, i link da cui abbiamo preso le informazioni e scaricare la puntata. Mentre il Circolab è aperto tutte le domeniche pomeriggio a partire dalle 17:30 in via Fratelli Bandiera 14, venite anche per avere informazioni sui corsi.